un fiore di beltà, ma non sai cos'è l'amore. Mai potrai sognare felicità, troppo ce l'hai tu nel cuore, amami di più, stringimi di più, dimmi che il mio amore sei tu, non aver timore, resta sul mio cuore, questo è il più bel sogno. Taci così, senza dirmi perché, vuoi dunque farmi soffrire, spasimare perché, amami di